Georgina. Siku uliondoka uliniacha ndalia na machozi, umekwenda kuishi mbali nami Georgina wa mama. Sipati usingizi nikikumbuka ulivyoishi mimi nawe Georgina. Georgina, Georgina, oh, Georgina, Georgina.